gli anni 30 furono gli anni d'oro dello swing. Lo swing che a noi interessa è quello di Kansas City, perché è più legato al blues, con un sound più crudo, una sezione ritmica pulsante e l'uso del riff, spesso di sassofono, per rendere immediatamente riconoscibile il pezzo. Lo stato del Missouri non fu colpito dalla crisi grazie al beneficioso commercio di bestiame e visse un periodo di splendore irripetibile. Qui, sul finire dell'Ottocento, migliaia di afroamericani si erano trasferiti grazie alla predicazione di Benjamin Singleton, che era sicuro che quella fosse la terra promessa. Per la città passarono nomi del calibro di Benny Moten, Coleman Hopkins, Lester Young, Big Joe Turner, Louis Jordan, Jimmy Rushing e soprattutto Count Basie, il Conte, personaggio fondamentale nell'evoluzione del jazz e nello sviluppo del rhythm and blues e quindi del rock and roll. Anche il blues visse una decada molto felice. I talent scout inviati a sud trovarono tanta roba. Gente come Blind Boy Fuller, il duo Sonny Terry e Brownie McGee, Blind Lemon Jefferson, Blind Willie McTell, Sonny Boy Williamson, Son House e tanti altri padri del blues delle origini che presto rubarono il palcoscenico alle grandi voci femminili. Fra i tanti, il privilegiato e poco conosciuto Kokomo Arnold, ottimo chitarrista slide, un mancino molto influente per Robert Johnson, che trasformò la sua Old Original Kokomo Blues in Sweet Home Chicago o Milk Home Blues in Milk Home Calf Blues. Nel 35, ripeto, 1935, ci lascia bocca aperta con questa The 12, Dirty Dozen, con dei riff di chitarra dal forte sapore a Chuck Berry. Lui è Kokomo Arnold, The 12. So the one everybody, fall in line. Shake your shimmy like I'm shaking mine. You shake your shimmy, shake it fast. If you can't shake your shimmy, shimmy, yes, yes, yes. Cause she's a dirty mistreater, robber and a cheater. Slip your into this and mop it in your cousin. Let your mama do the Lord alone. Yango, your mama, out across the field, slipping and sliding, it's like an automobile. I hollered at your mama, I told her to wait. She slipped away from me just like a cat like eight, cause she'd run in the street, robber and a cheater. Slip it in the desert, hopper it in the curtain, let your mama do the Lord. I like your mama, sister too. I did like your papa, but your papa wouldn't do. I met your papa on a corner the other day. I soon found out that he was funny that way. Caught you the dirt in the street, a robber and a cheater. Slip you in the desert, papa and your cousin. Let your mama do the Lord alone. I ride it, Mr. Kokomo, now get on it, boy. Ride it. Little way down yonder, New Orleans, the wildcat jumped on the sewing machine, sewed so fast, sewed 99 stitches up his yes, yes, yes, caught you the dirty mistreater, robber and a cheater, slip it in the desert, pop it in your cousin, let your mama do the Lord alone. I played Jackson, now get on it. God made elephant, made him stout. He wasn't satisfied until he made him a snout. He made him a snout just as long as a rail. He wasn't satisfied until he made him a tail. He made him a tail just to fan the flies. He wasn't satisfied until he made him some eyes. He made him some eyes just to look on the grass. He wasn't satisfied until he made his yes, yes, yes. He made his yes, yes, yes, and he didn't get it fixed. Say what that's fine until he made him sick. He made him sick and then got him well. You know what that the big boy's caught in the hell. Caught in the dirt in the street or robbing at a cheetah. Slipping in the dozen, popping in the cousin. Let your mama do the Lord, the Lord. Scoperta più straordinaria la fecero nel novembre del 36 a San Antonio, dove scovarono un ragazzo del quale si dicevano tante cose. Si diceva che aveva perso la giovane moglie e il figlio per delle complicazioni nel parto, che la sua chitarra aveva 7 corde e che il diavolo in persona gli aveva insegnato i segreti dello strumento una sera di mezzanotte nell'incrocio fra le highway 61 e 49. Il patto era chiaro. In cambio dell'anima sarebbe stato il bluesman più grande di tutti i tempi. Questa leggenda, da lui stesso alimentata nelle sue canzoni, assieme a una tecnica chitarristica e compositiva senza uguali, ne fanno la figura fondamentale nello sviluppo del blues e del rock. Non è chiaro se fu un marito geloso che lo avvelenò o fu la pneumonia a portarselo via a 27 anni, un'età tristemente nota nel rock, oppure fu il diavolo che venne a prendersi ciò che era suo. Robert Johnson lascia un'eredità di sole 29 mitiche canzoni, ma che bastano a farlo essere il bluesman più influente della storia del rock. Questa è Crossroad, che si registrò nel novembre del 36 in una stanza del Gunter Hotel di San Antonio. Robert Johnson, Crossroads. Del rock, il 1931 è un anno epocale. George Buchan e Adolf Rickenbacker inventano la prima chitarra elettrica. La Rickenbacker A22 chiamata frying pan, padella, per la forma rotonda del corpo massiccio. Qualche anno dopo ci proverà la Gibson con la ES-150, la chitarra di questo solo flight del genio Charlie Christian, super chitarrista jazz e pioniere nell'elettrificazione dello strumento. Verso la metà di questi anni 30, per rafforzare il ritmo, venne aggiunta la batteria, ma fu soprattutto l'elettrificazione dei microfoni che cambiò per sempre la forma di cantare. L'introduzione del microfono elettrico fu una vera e propria rivoluzione. Decretò innanzitutto la fine del bel canto di tradizione operistica. Il microfono, essendo sensibile alle variazioni minime della voce, privilegiò cantanti meno potenti, ma più attenti alle sfumature emozionali, per conferire maggiore autenticità ai testi. You must have been a beautiful baby. You must have been a wonderful child. Purtroppo nacquero i crooners, i cantanti sentimentali capaci di conquistare i cuori delle donne, stimolare l'ammirazione degli uomini e di qualche teenager al cuore spezzato. La star delle star e padre di tutti Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Perry Como che verranno, è Bing Crosby, che con la sua voce profonda e aspetto dell'uomo qualunque sarà il personaggio perfetto per reincarnare il padre ideale, il marito modello, il fidanzato devoto, il vero americano doc. A non farci perdere la speranza, sarà uno dei primi shouters del blues, pioniere della nuova musica che verrà. Il suo stile è uno swing impregnato di blues e la sua voce un ruggito. Una voce tanto potente che si dice si poteva sentire a 10 isolati di distanza. Il suo nome è Joseph Vernon Turner Jr., ma vista la mole è per tutti Big Joe Turner, uno dei progenitori del rock and roll che sarà baciato dal successo solamente negli anni 50. Nel dicembre del 38, assieme al fido pianista Pete Johnson, ci sfonda un chiaro antenato di questa musica. Roll and Pete, Big Joe Turner. She got eyes like diamonds, teeth shine like lime dyed gold. Got eyes like diamonds, teeth shine like lime dyed gold. Every time she loves me, she sends my mellow soul. You're so beautiful, but you got to die someday. Well, you're so beautiful, but you got to die someday. Before you better wait. Roll it, boy, let them jump for joy. Yeah, man, happy as a baby boy. Well, there's another brand new choo-choo toy. Baby, now you can miss me somebody else. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, I know. What all right then? What all right then? What all right? lullaby. Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Texas, tea for Tennessee. Nonostante la Grande Depressione, va molto forte anche la scena musicale Hilly Billy. Il termine, anch'esso dispregiativo perché è sinonimo di bifolco, sarà in uso fino agli anni 40, quando fu sostituito con country and western, o semplicemente country. La musica degli Appalachi si diffonde in tutta la nazione grazie alla radio, in particolare al programma Grand Ole Opry, che trasmetteva da Nashville, Tennessee, e aveva un segnale tanto potente che copriva tutto il territorio statunitense, facendo conoscere la musica tradizionale americana a tutto il paese. Il capostipite di tutto e prima grande star del genere è Jimmy Rogers, pioniere nell'arricchire il folk delle ballate tradizionali con il blues e il jazz. Famoso per aver incorporato il canto yodel nei suoi brani, autentico marchio di fabbrica, come in questa Blue Yodel No. 1, conosciuta come Tea for Texas. In questi anni nasceranno anche altri sottogeneri decisivi nello sviluppo del country moderno, come il Western Swing. Questa musica, originaria della zona del Texas, Oklahoma e California, si era contaminata con la polka, il folklore messicano, il blues e lo swing, dando origine a un tempo animato con protagonisti il violino e la steel guitar. La chitarra simbolo inequivocabile del country, resa popolare da Bob Wills e i suoi Texas Playboys. Il modo di suonarla veniva dalle Hawaii, dal maestro dello strumento Josep Kekuku, che la suonava appoggiata sulle gambe, facendo scivolare sulle corde un coltello. Testimonianza di questo western swing è She's Killing Me, ovviamente del re del genere, Bob Wills. I went to see my sweetie last night, was a moonlight night and the stars shining bright. Romantic as I went through the gate to fill that lovely day. Yeah. I went right in and this is what I found. A cozy room and the shades were down. Sat on my knee, oh Lord, to me that gal, she's killing me. She's killing me. She's killing me. Oh, killing me. Oh, killing me. Lordy, Lord, that gal of mine, that baby's killing me. I got lonesome just the other night and went to see Miss Bonnie Lee White. Should've known better cause Bonnie Lee was not expecting me. Uh-huh. I went to the window to see if she was gone. Was the bathroom window and she was gone. Oh, Bonnie Lee, oh, yeah. Bonnie Lee, that gal, she's killing me. She's killing me. She's killing me. Oh, killing me. Oh, killing me. Lordy, Lord, that gal of mine, that baby's killing me. Brother Evan Stover now. She's killing me, oh killing me, oh killing me, every time I see that. gal of mine, oh Lord, she's killing me. Altro ibrido è il bluegrass, della zona sud-est degli States. Questo stile predilige l'uso di strumenti acustici. I brani tradizionali venivano suonati in maniera rapida con ottima tecnica. Il primo e più importante ispiratore del genere è Bill Monroe, che battezza lo stile con il nome del suo gruppo, i Bluegrass Boys. Il brano Mule Skinner Blues è del maestro Jimmy Rogers, ma riarrangiato alla maniera bluegrass. Bill Monroe, Mule Skinner Blues. Il primo brano country a utilizzare l'espressione rock and roll nel senso di ballo è Rockin' Rollin' Mama di Buddy Jones, uno degli artisti della scena honky tonk più trascurati. Autore, tra la fine dei 30 e l'inizio dei 40, di parecchi singoli di rilievo, come questo antenato di puro rockabilly. Rockin' Rollin' Mama, Buddy Jones. There's waves on the ocean, waves in the sea, but that gal of mine rolls just right for me. Rock and rollin', mama, I love the way you rock and roll. Ease my troubled mind, pass by my weary soul. My pants are always pressed, shirts are always clean. I know I've got a good gal, so I never treat her mean. Rock and rollin', mama, I love the way you rock and roll. Ease my troubled mind, pass by my weary soul. Thank you. I don't need no money. My pocketbook is full. You can do the same thing if you don't shoot the bull. Rock and roll, and mama, I love the way you rock and roll. Ease my troubled mind, pacify my weary soul. I was born in Alabama, raised in Tennessee. My gal was born in Florida, where the ships roll out to sea. Rock and roll, and mama, I love the way you rock and roll. You ease my troubled mind, pacify my weary soul. Oh, play that piano, Mr. Moon. Baby's out most every night, out till half past three. When she's tired of rocking, she rolls it home to me. Rock and roll, and mama, I love the way you rock and roll. Ease my troubled mind, pass by my weary soul. Da quando ascolto Cioccolato Bianco mi sono cresciute le bassette. A risollevare l'economia americana fu lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni che vanno dal 39 al 44 furono i migliori grazie ai rifornimenti di materiale bellico a Inghilterra, Cina e Russia. La richiesta di manodopera nelle città per sostenere lo sforzo bellico provocò un'altra grande ondata migratoria, soprattutto dal sud. La fine della guerra lasciava cifre raccapriccianti. Oltre 50 milioni di morti, dei quali più della metà russi. Città interamente distrutte, culminate con le due atomiche che rasero al suolo Hiroshima e Nagasaki. I vincitori della guerra, USA e URSS, si spartirono l'Europa. L'Occidente sarebbe stato sotto la sfera di influenza statunitense, mentre l'Europa orientale sotto quella sovietica. Il regime comunista godeva di buona fama per non essere stato intaccato, o perlomeno così dicevano, dalla Grande Depressione rimbalzata in Europa durante gli anni 30. La vittoria della rivoluzione guidata da Mao nel 1946 confermava i timori americani di un'espansione comunista mondiale. Nel 1948 venne attuato il piano Marshall per la ricostruzione dell'Europa al di qua della cortina di ferro. Aiuti economici a cambio della sudditanza politica e dell'obbligo di fermare l'avanzata russa. La rivalità fra i due sistemi, quello capitalistico e quello comunista, sarà il denominatore comune delle decadi successive. Un periodo che prenderà il nome di Guerra Fredda. Fortunatamente per la musica le cose andavano meglio. In questi anni la radio entrerà nelle case dell'80% delle famiglie e assumerà un'importanza fondamentale per la diffusione della musica attraverso la promozione dei dischi. Il disco, che fino a questi anni era quello di gomma lacca a 78 giri, finì nel dimenticatoio quando nel giugno del 48 la Columbia presentò il disco in vinile a 33 giri, che poteva riprodurre fino a 30 minuti di musica. Il famoso long play. L'anno seguente la RCA rispose con il disco da 7 pollici che conteneva due brani, uno per lato con 45 rivoluzioni per minuto, il celebre single. Il vinile, oltre a essere leggero e resistente, aveva anche un costo contenuto, cambiando per sempre la forma d'ascolto della musica. Saranno anche gli anni nei quali si popolarizzano la televisione, che passò da poche centinaia di unità nel 1940 a oltre 1 milione nel 1949, e il jukebox, che dopo la guerra e grazie all'invenzione del 45 giri in vinile divenne un'istituzione nei locali. I nuovi modelli potevano contenere fino a 50 single per un totale di 100 pezzi, invece dei 12 brani dei modelli a 78 giri. In questi anni nasceranno la maggior parte delle case discografiche indipendenti come la Capitol, la Mercury, la Specialty, la Imperial, la Chess o la Atlantic, e anche le classifiche di rhythm and blues, pop e country di Billboard con le canzoni più vendute. La musica più diffusa del periodo erano le canzoni dei crooners con l'enorme successo di Bing Crosby, Sinatra e compagnia bella, e lo swing delle big band come la celebre In the Mood di Glenn Miller. La rivoluzione jazz del bebop nel 44 pone fine alla gloriosa epoca delle grandi orchestre. Sarà un'evoluzione cruciale perché fino ad allora il jazz era stata la musica da ballo dell'intero paese. Il nuovo jazz era una musica seria e colta, una musica per la mente e non per il corpo. Il testimone dell'evasione e del divertimento passò al rhythm and blues. La nuova etichetta coniata dal giornalista di Billboard, Jerry Wexler, che nel 1949 metteva in un grande calderone tutta la musica nera non jazzistica. Negli anni 40 gode di popolarità una musica che viene dalle chiese e deriva direttamente dagli spirituals. Il gospel, dall'unione di God e Spell, la parola di Dio, la buona novella. Grazie soprattutto al pianista e compositore Thomas Dorsey, questa musica si arricchisce di strumenti ed elementi della musica nera, come il jazz e il blues. Anche le tematiche cambiano. Le lodi al Signore sono sostituite da messaggi sulla liberazione del popolo afroamericano, nascondendo spesso messaggi in codice. A dividere il trono di questo regno del Signore ci sono la splendida voce di Mahalia Jackson, che predilige il canto con sfondo religioso, e la importantissima figura di Sister Rosetta Tharpe. Questa geniale artista aveva intriso questi inni di blues anticipando le sonorità rock and roll della decada successiva. Sister Rosetta fu un'autentica icona trasgressiva, sia musicalmente che culturalmente. Non solo cantava e suonava la musica del demonio, ma era anche donna, nera e omosessuale. Brani come questa Strange Things Happening Every Day del 1944 non fa che confermare il suo soprannome di madrina del rock and roll. Lei è Sister Rosetta Tharpe, Strange Things Happening Every Day. All we hear church people say, they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Thank you. with all his lies, that are strange things happening every day. Altro genere di rhythm and blues decisivo per lo sviluppo del rock and roll è il jump blues, un termine in voga negli anni 40. Il jump blues è una fusione che raccoglieva l'eredità dello swing di Kansas City, cucinato con blues e boogie. Una musica dal tempo veloce e festivo, fatta per ballare, con testi che invitavano al divertimento, spesso con velate allusioni sessuali. Era suonato da piccole orchestre, composte da 6-7 elementi, con una potente sezione ritmica, un pianista, un cantante che per la forma di cantare prenderà il nome di shouter, urlatore, e una poderosa sezione fiati, con il sassofono protagonista quasi assoluto, con assoli rumorosi e frenetici che facevano questi jumps, salti, a metà della melodia. I sassofonisti che spingevano lo strumento verso le note più acute o più basse, producendo un effetto selvaggio, prenderanno il nome di honkers. Fra i tanti, il campione indiscusso è Illinois Jacket, che dopo aver suonato col pioniere del genere, Lionel Hampton, si mette in proprio e ci delizia con questa Blues Part 2. Lui è Illinois Jacket. Uno dei maggiori esponenti del jump blues è il sassofonista, cantante, showman Louis Jordan. Jordan si era fatto le ossa nella swing band di Chick Webb, che aveva dominato il Savoy Ballroom di New York negli anni 30. Si trasferisce in California, a Los Angeles, trovando successo sia nella musica che nel cinema. Nel gennaio del 1945, assieme ai suoi Timpani Five, dà un contributo fondamentale alla nascita del rock and roll con questa Caldonia, che fu numero uno per 7 settimane nella lista di musica nera e addirittura al 6° posto in quella pop, la lista normalmente riservata ai bianchi. Nella versione di Ernie Hawkins, la stampa inizia a usare il termine rock and roll, definendola una canzone molto ritmata di rock and roll. Ma questa è meglio, è l'originale di Louis Jordan, Caldonia. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caldonia is her name. Caldonia! Caldonia! What make your big head so hot? Ma, I love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caldonia is your name. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But mama didn't know what Caldonia was putting down. So I'm going down to Caldonia's house and ask her just one more time. Caldonia! Caldonia! What make your big head so hot? Febbraio dello stesso anno, il contagioso ritmo veloce e trascinante del padre del bluegrass, Bill Monroe, è un altro passo in avanti della musica country nella crescita verso il rock and roll. Questo è Rocky Road Blues, Bill Monroe. Got the old blues, I'm wearing out the soles of my shoes. Curtis Creighton, conosciuto come Pee Wee Creighton, è un chitarrista texano poco conosciuto nel mondo del blues. Un altro che ha raccolto poco nonostante una buona semina. Il suo stile si rifà a T-Bone Walker, ma invece di essere polleggiato come il maestro, sfodera un sound molto più aggressivo e dinamico. Questa Pee Wee's Boogie del settembre del 45 è la dimostrazione della sua superba tecnica e fantasia. Pee Wee Clayton, Pee Wee's Boogie. Chiamavano Champion perché con i guantoni ci sapeva fare davvero. Era stato il bombardiere nero in persona, il mitico Joe Louis, a spingerlo verso la box. Aveva disputato più di 100 incontri e vinto vari campionati, guadagnandosi sul campo il soprannome di campione. Negli anni 40 prova a Chicago a vivere della sua altra grande passione, il piano. Qui inizia a frequentare il circolo di Big Bill Bronzy e Tampa Red, che gli presentano il talent scout e produttore Lester Melrose, personaggio chiave per il blues di Chicago. Le prime registrazioni di Champion Jack Dupree per la Hawker Records hanno un forte sapore di New Orleans, sua città natale. Nel 1945 registra questo piano boogie che servirà di ispirazione a molti colleghi della decada successiva. Lui è Champion Jack Dupree. Let's have a ball! Take you all night long. Let me know. gonna boogie all night again and let's have a ball. Yes, let's have a ball. Yes, let's have a ball. If it take you all night long. Now pull up your blouse and let down your skirt. Get down so low till it beat you in the dirt and let's have a ball. Yes, let's have a ball. Yes, let's have a ball. If it take you all night long. Ball it now. Elton e Rebon sono due fratelli originari dell'Alabama, molto famosi negli anni 30 e 40. Ospiti fissi dal 33 al 36 del mitico programma di musica country Grand Ole Opry. La loro musica sposa il country tradizionale con il blues e il boogie, gettando le fondamenta del rockabilly. Loro sono i Delmon Brothers che nel 46 registrano la loro scatenata Illy Billy Boogie. I know a fella from down Alabama way. He can play the blues in a different sort of way. He's got no piano for the A to the bar, but he picks out the boogie on his old guitar. He plays the hillbilly boogie in the lowdown way. And he can play the boogie, play it for me in the old days. Well, play one now. All you fellas, if your gal's kinda cold, she don't want your lovin' and she thinks you're too bold, make for a honky-tonk, go there tonight, play the hillbilly boogie, then you do all right. She likes the hillbilly boogie, oh, yeah, and the low-down way. She likes the hillbilly boogie, play for every day. A confermare l'importanza di Louis Jordan c'è quest'altro numero uno, Ain't That Just Like a Woman, dell'anno successivo. Il chitarrista della band di Jordan, Carl Hogan, si inventa un riff di chitarra che 10 anni più tardi Chuck Berry copierà nota per nota per il suo classico Johnny B. Goode. Questa è Ain't That Just Like a Woman, Louis Jordan and the Stimpani Five. Thank you. Now was Adam happy as a man could be till Eve got him messing with that old apple tree? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Lot took his wife down to the corner store for malted. She wouldn't mind her business, boy, if she gets salted. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Samson thought Delilah was on the square till one night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Sure will. Nero fiddled while Rome was burned. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Marie Antoinette met them hungry cats at the gate. They were crying for bread. She said, let them eat cake. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Side. No matter what you do, she's never satisfied. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. E per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco, la storia del rock, quella vera.